avait des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux. È un brutto inizio di settimana, è vero, almeno qui a Roma. Questo lunedì è terrificante. Finalmente è arrivato l'inverno, tutto assieme, dopo questa illusoria estate che ci ha fatto per un attimo pensare che il tempo si fosse fermato. Beh, questa mattina state sereni, vi tiro su io. Oggi di cosa voglio parlare? Oggi voglio parlare delle donne che vanno a puttane. È metaforica, poi non dirò più parolacce, chiedo scusa a chi in questo momento mi potrebbe rimproverare. Devo dire che al di là della facezia, la stampa delle ultime settimane, a parte qualche parentesi sugli ultimi svolgimenti del caso Sara Scazzi, si è appassionata in maniera viscerale alle abitudini, diciamo, di sollazzo erotico dietro compenso o di personaggi eccelsi o generalmente di una classe di persone, di uomini che hanno comunque un prestigio, un privilegio, un posto privilegiato nella società. Da lì la ricaduta che tutti gli uomini siano puttanieri è molto semplice, molto scontata. Perciò questa mattina, se volessi casomai tenermi su un tema che forse è caro all'opinione generale, ma fare una digressione, una deriva laterale, vorrei parlarvi dell'altrettanto lecito diritto da parte delle donne di procurarsi momenti di passione, momenti di piacevolezza, momenti anche di illusione amatorica previo pagamento. Voi naturalmente mi accuserete di toccare qualcosa che appartiene delle punte limitatissime della società, ma non ne sarei poi così d'accordo. Non sarei così sicuro nel dire che il fare l'amore a pagamento, chiedere sesso in cambio di denaro, sia una prerogativa solamente maschile. Una volta messo a punto il fatto che sia lecito, possibile, immaginabile, anche gratificante ottenere da una persona un contatto fisico, un momento di compagnia, una epidermica piacevolezza in cambio di denaro, in maniera spassionata, in maniera assolutamente consapevole che si tratti di una transazione commerciale. Tu mi fai stare bene per un certo periodo di tempo, io compenso questa tua attività non spinta da passionalità, da desiderio, d'amore, innamoramento, da voglia di prescegliere me nella folla infinita delle persone, e quindi giustamente ti compenso per il tempo che perdi. Questo, da un certo punto di vista, classifica e specializza una professionalità. Ci sono degli uomini, che come ci sono pure delle donne, che si stanno specializzando nel creare appunto dei modelli umani che siano piacevoli per riempire alcuni vuoti affettivi, vuoti relazionali, vuoti di desiderio sessuale. Ora chiarisco subito la mia posizione. Non sono una persona che ha mai praticato il mercimonio di tipo fisico, perché sono fortunato, perché nella vita, quando ero ragazzo, ho sempre avuto possibilità di relazioni spassionate e gratuite, perché adesso, pure che sono anziano, mi sento abbastanza a posto, non ne ho bisogno. Ma non disdegnerei, lo dico molto sinceramente, con piena cognizione di causa e prendendomene anche la responsabilità, che in un momento di particolare solitudine, particolare abbattimento, di particolare desiderio fisico, sì, perché il fisico molte volte ha le sue esigenze. Abbiamo bisogno di avere una persona che ci abbracci, che ci tenga abbracciati. Abbiamo bisogno di sentire il calore di un corpo accanto a noi. Me lo disse una volta una mia amica single. Dice: tu non ti puoi immaginare che sei sposato, c'hai figli, ti lamenti, hai una vita pressoché banalmente normale. Quanto si abbia il viscerale bisogno certe volte di avere una persona che tenga abbracciato. Se questa persona non la trovi, se il prezzo di questo abbraccio è talmente forte ad avere vicino l'obbligo di accollarsi i sensi di colpa, di accollarsi i piagnistei, di accollarsi la noia, di accollarsi i cattivi odori, di accollarsi la sventatezza, la sbadatezza, la poca perizia nello stare abbracciati, ma allora perché no? Perché non pagare una persona che questo lo sa fare perfettamente? Come la pensate, cari ascoltatrici? 800 24 0024. Ciao, mi chiamo Luke. Sono un 28enne etero. cultura universitaria, ampie vedute e abile massaggiatore. Sono disponibile per single distinte e di classe o per lei di coppie, per addii al nubilato, cene, aperitivi, ingelosimenti, serate a tema o in compagnia, in discoteca, teatro, cinema. Chiamami. Che aspetti? 800240024. Questa è una mattina difficile, questo è un momento forse non certo limpido per poter parlare e dire come la si pensa, però mi piacerebbe sapere il giudizio delle donne, il pensiero delle donne. Non voglio che mi diciate che anche voi avete ceduto, anche voi una volta nella vita, magari in viaggio con le amiche, magari in certi posti dove è più facile avere questa sorta di liminare illusione in cui questo bel ragazzo dagli occhi profondi, dal fisico perfetto, l'abbronzatura meravigliosa, ci sta vicino, ci corteggia, ci accompagna, e possiamo per un attimo avere anche l'illusione che lo faccia semplicemente perché noi gli piacciamo. Poi il fatto che ci chieda un po' di soldi fa parte, perché magari, non so, è un ragazzo che appartiene a un mondo, è una particolare latitudine in cui si vive nell'indigenza, quindi per noi occidentali benestanti mettergli in mano quei $50 non è che ci faccia poi un gran problema, ci si compra un regalino, pensiamo, non accostiamo quel regalo all'idea terribile, squallida della marchetta. Non abbiamo fatto una marchetta, abbiamo fatto un regalino a un ragazzo che ci ha fatto sognare per una notte o per una settimana in un'isola fantastica. Quanti di voi perlomeno hanno sentito che questo lo si faccia? Io ho molte amiche che lo fanno, me lo hanno confessato, me lo hanno detto, ma nemmeno con tanto senso di vergogna, con un malcelato senso di orgoglio. Sono stata lì, sono stata in quel villaggio, c'era un accompagnatore molto carino, sapevo che era una marchetta. Mi piaceva però che fosse una marchetta, non ho avuto strascichi, non ho avuto noie, non ho avuto queste lungaggini sentimentali e non mi sento nemmeno in colpa verso il marito, il fidanzato, l'amante, il compagno, perché in fondo ho fatto quello che fanno tanti uomini. Ciao, sono un escort esclusivo solo per donne. Le mie foto dicono tutto. Sono disponibile per aperitivi, cene, serate, weekend o anche solo per chiacchierare e fare compagnia a te. Donna esigente, dinamica e amante della bella vita, che spesso cerchi una poesia in una serata trasgressiva. Massima serietà, riservatezza, discrezione. Non cadere nella rete degli improvvisati di turno. Scegli un vero professionista. Scegli chi ha fatto di questo lavoro uno stile di vita. Mentre vi faccio ascoltare qualcuno degli annunci presi proprio da un sito specializzato, escort.it, gigolò.it, che è il sito, penso, di chi offre questo tipo di prestazione a livelli veramente professionali. È fatto senza dare possibilità di equivoco. E soprattutto i maschi che sono classificati, sono di tutti i tipi, non pensate ci siano soltanto, ci sono anche quelli, i culturisti, quelli dei muscoli lucidati, dei fisici svettanti, quelli dello sguardo tenebroso, ma ci sono anche ometti che potrebbero sembrare personcine normalissime e tranquille, però probabilmente hanno uno sguardo rassicurante, hanno una certa dolcezza nella postura, hanno un'eleganza, si presuppone che a loro non puzzino le ascelle, si presuppone che non abbiano quelle unghie nerastre, si presuppone che non si infilino le dita nel naso mentre parlano a tavola, che non usino lo stuzzicadenti, che abbiano la gentilezza di lasciare il passo alle signore, di prenderle teneramente sotto braccio, di guardarle negli occhi quando parlano, non abbiano quella terribile fiatella che molte volte segna anche il più affascinante e galante degli accompagnatori in maniera indelebile, come qualcosa di schifoso. Francesca, buongiorno. Buongiorno a te, ciao. Eccomi qua, finalmente una donna che ha il coraggio di parlare. Allora, io sinceramente, io ho 37 anni, sono molto giovane, non mi è mai capitato, cioè, pagare, però mi sono trovata in situazioni in cui la persona con cui ho avuto, diciamo così, tra virgolette, un rapporto era in situazione indigente, anche mi sono sentita io stessa magari di invitarlo a cena, di non fargli pagare niente, tra virgolette. Non penso che ci sia. Tu hai un po' la passione per il morto di fame, allora è diversa, ti piace no, aspetta, possedere aspetta. Lo sfigato perché dici lo mantengo così no, non... No, no, no, no, assolutamente, si è presentato in maniera completamente diversa, cioè si è presentato ben vestito, elegante. Un millantatore allora, un buffone. E poi mi sono resa conto che alla fine era uno che fondamentalmente aveva meno soldi di quelli che potevo immaginare. Lo sai, qualche volta mi è capitato di vedere questi signori splendidi. Molte volte capita di andare a cena con amici, amiche, conoscenti, e c'è sempre lo splendido di turno, ti racconta delle sue 6 case a Miami, delle sue conoscenze ad altissimo livello, delle sue frequentazioni, ma tu cominci a guardargli le unghie e già capisci che non hai soldi, non hai soldi per la manicure, dai pantaloni con degli aloni sospetti che non c'ha una cameriera. Basta guardare l'orlo dei pantaloni e ti rendi conto che magari sono usati più del necessario o non hai soldi per rifarsi l'orlo, quello è normale. Però ripeto, io da donna non ci troverei niente di, cioè non ci trovo niente, non ci troverei niente di male se per trovare quell'attimo di, diciamo così, di pagare un uomo, non è questo lo sentirmi dire. Di quel momento che tu hai descritto di affetto, l'abbraccio, il senso di calore che ti manca di pagare, non ci troverei niente di male. Anche perché, Francesca, diciamocelo chiaro, quante volte noi nella vita ci siamo concessi a persone con la totale leggerezza di starci soltanto per rubare alla vita una mezz'ora, un'ora, una notte, un pomeriggio, una serata di uscita dal mondo. In quel caso noi non siamo stati puttane, perché non è che l'abbiamo fatto per affetto, non abbiamo avuto questa giustificazione che l'amore sembra sdoganare qualsiasi atto fisico. Ma io l'ho fatto per amore, ma io ti amavo, ma io ti desideravo, ma io ti volevo. Mi sembrano un po' stupidaggini, secondo me. Posso dirti una cosa? Certo. Allora, io sono sposata relativamente da poco, facciamo un anno a dicembre. Beh, ancora non andrai a puttane, quindi... No. Io mio marito, però, l'ho conosciuto in un periodo della mia vita in cui ero molto, tra virgolette, libera. Cioè, non avevo nessun legame fisso, uscita da una situazione sentimentale molto, tra virgolette, brutta. E quando ho conosciuto lui... Con lui, il primo periodo del nostro rapporto, noi siamo stati assieme 10 anni prima di sposarci, era solo per, ci vediamo solo, scusami il termine, per fare sesso. L'intima d'azione, sì, per l'intima d'azione, usiamo questa metafora. Ci vedevamo, ci sentivamo, sei libero, ok, ci possiamo vedere a tale ora, ok, no, va bene, ci spostiamo magari un altro momento, ci vediamo domani. Ma io trovo fantastico che la motivazione dell'incontro sia un atto fisico dirompente, perché io trovo una delle cose più idiote nelle relazioni civilizzate, ti invito a cena, quando ti invito a cena sta già in sé ti vorrei togliere le mutande, perché bisogna perdere tempo a ingollarsi di cibo, a riempirsi di bolo digestivo, a guardarsi mentre si mangia, si biascica e tutto, e poi riservare le ultime 2 ore di quella serata a quello che in realtà è il vero scopo. Ascolta, io ho un amico che, diciamo così, non è, diciamo, bellissimo, e lui spesso e volentieri usa queste signorine, diciamo, con cui si accompagna. E lui mi ha detto, Francesca, quello che perdo io invitandoli a cena, regalandoli fuori, poi magari non neanche me la dà, preferisco pagare una che me la dà, ho finito, mi diverto, sì, e sono questo serena. È un discorso un po' trito da barberia di paese, non è esattamente la stessa cosa. Lo so. Io non rimpiango mezzo euro o mezza lira, secondo il vecchio conio, di soldi spesi nel regalare fiori, portare persone fuori anche se non me l'hanno mai data. Che vuol dire? Non è esattamente la stessa cosa. È che in realtà la donna chiede molte volte una sorta di rituale di corteggiamento che debba poi giustificare l'intima d'azione, ma io penso che il gigolò, e tra un po' ne sentiremo uno che già ci sta ascoltando, di anche questo. Sì, pronto? Sì, ti sto ascoltando, Francesca. Ti sto dicendo, sì, probabilmente hai ragione tu, cioè magari può essere considerata questa cosa una cosa un po' barbara, una cosa un po', tra virgolette, non corretta, però ripeto, però da gusto, ecco questo. Ascolta, ripeto, la mia relazione con mio marito, quindi siamo sposati. Sì, adesso non ti giustificare, facciamo finta che non c'è il marito, sennò sei troppo bloccata. Facciamo finta che parli di prima. Allora, io ripeto, quando ero, tra virgolette, libera e non avevo nessuna anni fa, 15 anni fa. Sì, non avevo nessuna difficoltà a... E non avrei tuttora, se dovesse finire il rapporto con mio marito, che mi auguro non finisca, non avrei nessuna difficoltà in un momento di solitudine e di bisogno fisico di rivolgerti a un professionista. A un professionista che mi rende quell'ora, quella tre quarti d'ora. Non so, io la tempistica non la so. Aspetta, resta lì, la tempistica la dico subito. Gianluca De Mar, buongiorno. Ciao, buongiorno. Qual è la tempistica, tu che sei del mestiere? Ma tempistica, allora, cioè, solitamente diciamo ci sono due tipi di donne che chiamano. Ci sono donne che vogliono passare subito al fatto. Specifica, tu sei un gigolò professionista, quindi esatto, sei la controparte che a noi ci serviva, che ha deciso e accettato questa mattina, anzi mi hai contattato tu su Facebook proponendomi la trasmissione, esatto. Quindi la signora che è ancora in linea, Francesca, non avrebbe nessuna difficoltà a farsi un pomeriggio a pagamento, però spiega esattamente quando si parla di tempistica di cosa si tratta. Allora, tempistica, cioè, solitamente ci sono donne che chiamano, per esempio, il martedì, giovedì, mi prenotano, non so, per il weekend piuttosto che il sabato sera, e dopo qua ci sono due distinzioni, diciamo, ci sono certe che vogliono prendere appuntamento e passano subito e mi dicono, guarda, voglio andare in questo albergo, in questo hotel. Scelgono loro la location? Sì, sì, fanno sempre tutto quanto loro. Dopo ci sono certe che... Vabbè, ma è una figata, tu non devi fare nessuna fatica te, a parte, diciamo, quella estrema. Esatto, quella sì. Il lavoro che tutti vorrebbero fare. Ma non lo so, dopo ci sono anche lì dei vari pro e contro. Andiamo al punto. No, perché voglio sapere. Allora, una volta nei vecchi casini c'era scritto semplice, doppia, mezz'ora, tutta la notte, non è così? No. Io solitamente, a seconda anche poi del tipo di donna e che cosa vuole, se vuole prima preliminare, se vuole passare subito al fatto, comunque di solito dura un'ora questa prestazione. E dopo dipende, perché dopo ci sono donne che chiedono di passare tutta la notte, quindi proprio da quando ci incontriamo fino alla... Cioè, scusami, per essere tecnici, l'ora inizia, diciamo... Dal momento dell'entrata fino al momento dell'uscita, o l'ora presuppone anche i preliminari? No, un'ora con tutto. Ah, tutto. Un'ora con tutto compreso. Quindi i tempi tecnici però sono più limitati di un'ora, non è che stai lì un'ora. Vabbè, no, certo. Bisogna dare informazioni, confermo. Siamo radio di servizio. Confermo. Dai, prego, va avanti. Poi, chiaramente dopo sono certe che si vogliono proprio svegliare con me, e quindi ora lì si passa proprio per tutta la nottata, perché sono certe che partono molto spinte e io voglio fare questo, io voglio fare l'altro, poi fondamentalmente hanno solo bisogno, sono molto sincero, un po' di affetto, un po' di... Se partono molto cariche, e però dopo si scoprono che invece sono delicate e quindi amano proprio svegliarsi con me, farsi due o tre carezze e poi dopo salutarci o fare anche semmai insieme colazione. È quello che dicevo io, è il desiderio che mi raccontano le mie amiche single di avere un corpo che ti sta abbracciato vicino, che è fondamentale, va avanti anche perché la consumazione fisica, l'atto fisico, che anche quella è un'esigenza piacevole, tutto, però si esaurisce. Il desiderio più prolungato è avere una persona che ti gratifica col fatto che ti sta accanto. 800 24 00 24, sospendiamo per un istante per le informazioni della borsa, ma già vedo tantissime telefonate di donne, quindi chiamate e dite come la pensate su questo scabroso, scottante e poco trattato argomento. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Ciao, sono James, un accompagnatore professionale davvero esclusivo, proveniente dalla carriera diplomatica, dove ho avuto modo di viaggiare e conoscere il mondo, le persone e il pianeta femminile. Assomiglio come una goccia d'acqua a un attore hollywoodiano. Sarò il tuo massaggiatore professionale che ti donerà un relax senza eguali. Sarò il tuo complice. Sarò il tuo pilota e il tuo autista, sia con limousine che autosportiva. Sarò il tuo skipper. Sarò il tuo maestro di sky. Avrai un ricordo indimenticabile all'insegna della massima soddisfazione. Chiamami. Oddio, maestro di Sky, non so cosa significhi, forse abbiamo scritto male noi il testo per lo speaker. Comunque questo è uno dei tanti messaggi su gigolò.it, un sito specializzato, perfettamente costruito, in cui di ogni offerta viene specificata le lingue che parla, le dimensioni fisiche, il grado di conoscenza delle arti dell'accompagnamento. E devo dire che la ricaduta sul pubblico delle signore che ci ascoltano, che sono appassionate interpreti del pensiero melogmane nei vari profili Facebook che noi mettiamo a disposizione, sembra di aver toccato un nervo scoperto. Scrive Loredana: se solo ne avessi il coraggio, risponde Maria, se solo avessi i soldi. E tutte si dicono che in realtà questa idea già esiste, già i viaggi a Cuba, i viaggi in Giamaica, che molte volte signorine organizzate vanno a fare, precludono, cioè includono nelle possibilità anche quella appunto di pagarsi i ragazzi, quindi non stiamo scoprendo nulla. Abbiamo al telefono un gigolò professionista, Gianluca De Mar, che ha anche un suo sito specializzato, che ci sta dando tutte le informazioni sui tempi, sui luoghi, sulle modalità, sul tipo di richiesta, per sdrammatizzare anche questa idea. Ma non tutti sono d'accordo che questa sia una pratica di cui bisogna occorra parlare. Renzo, ad esempio. Buongiorno Renzo. Sì, buongiorno. Dunque, allora, mi permette solo due premesse velocissime? Prego. Allora, secondo alcune proiezioni demografiche e statistiche, nel 2038, cioè tra poco più di 20 anni, non ci sarà più una donna italiana in grado di procreare. Perché il crollo demografico della nazione italiana, insomma. Sì, è un bel problema, ma cosa c'ha a che fare con quello di cui si... Ci arrivo subito. La seconda premessa è che io sono un appassionato di storia, mentre l'impero romano stava crollando, le varie messaline, le matrone romane che avevano contribuito alla creazione del più grande impero del mondo sono diventate di facili costumi. Ecco. Ma perché prima, perché prima erano tutte morigerate? Sì, perché quando il legionario partiva per andare a conquistare nuovi territori, la matrona romana restava a casa a crescere figli e a coltivare l'orticello. E si trombava gli schiavi, però erano fatti apposta. E il legionario andava, mi spassi il termine, a fare sesso con le donne delle popolazioni. Sì, c'era un senso di inseminazione della stirpe italica, una forma di colonizzazione. Esatto, anche delle Sabine, probabilmente lei ed io avremo degli lontani antenati nati dal ratto delle Sabine. Sì, ma ne sarei felice. Ok, allora, chiusa queste due premesse, secondo me la pratica dei gigolò non è nient'altro che uno dei tanti segnali di un decadimento oramai irreversibile. Guardi, io viaggio molto, ho viaggiato moltissimo per il mondo, frequento moltissimo il mondo dell'est, soprattutto la Russia, e le posso dire che in Russia il marito ha ancora, tra virgolette, la libertà di dare due schiaffi alla moglie quando dice una parola di troppo. Infatti le mogli vengono tutte qua in Occidente a prendersi gli averi e i possidenti dei nostri poveri uomini che non hanno più nessun orizzonte relazionale accettabile. Questo però non mi sembra una soluzione, che il marito possa picchiare la moglie. Cosa cambia? Se la picchia perché non acceda alla prostituzione maschile. Non sarei molto d'accordo sull'attribuire a una decadenza dei nostri tempi le donne che vadano a uomini, perché guardi, il mondo classico, se lei si legge gli autori classici, ma prenda uno per tutti Catullo, sono pieni dell'idea che le donne abbiano una libertà di espressività fisica, relazionale, sessuale, pari a quella degli uomini, sempre svolta con grande perizia, con grande metodo e con grande soddisfazione. Ma andando avanti dei tempi, non creda che il 700, l'800 sono stati secoli alieni da questo tipo di pratica. Probabilmente era una pratica colmava alcune differenze sociali, ma le signore hanno sempre scelto begli uomini e bei ragazzi per la loro vigoria, quando la classe che frequentavano non gli dava altrettante caratteristiche di soddisfazione. Comunque lei la pensa così. Danilo. Sì, salve, buongiorno. Io chiamo più che altro per una curiosità. Io vorrei sapere in effetti qual è il profitto, visto che Cellino è un professionista. Perché sarebbe interessato a praticarlo? Beh, sarei interessato, magari no, forse non sono nella situazione, però comunque la curiosità c'è. E subito, Gianluca De Mar. La domanda è questa, e poi era un'altra domanda. No, aspetta un attimo, Danilo, una per volta. Gianluca De Mar, gigolò professionista, nostro ospite questa mattina, chiede l'ascoltatore Danilo quanto si guadagna. Poi se puoi fare un commento anche alla telefonata di prima, che consideri questo come un fenomeno di decadenza tipico dei tempi, non sarei molto d'accordo. No, assolutamente. Ogni tanto il compenso, diciamo, per ogni prestazione è all'incirca 500 euro. Quindi diciamo per la prestazione completa, cioè uscita fuori semmai il ristorante. Tempo che tu guadagni costa 500 euro, ecco. Il tempo esatto. che tu dedichi a una persona, ecco. Esatto, poi dopo bisogna vedere, perché se una ragazza chiede di fare un fine settimana piuttosto che una settimana via a Sharm el Sheikh, dopo chiaramente, però diciamo circa 500 euro per volta. Che ti impegnano mezza giornata? Sì, beh, diciamo fra preparazione, trasferte, tutto viene impegnato poi un giorno circa. E tu durante la settimana quanti lavori puoi fare? 3-4? No, al massimo 2. 2? Io al massimo 2, perché dopo sennò poi è troppo, perché comunque io faccio anche altro, quindi questo è il mio secondo lavoro, diciamo, anche sì, se allora sta diventando un po' il contrario. Praticamente che il lavoro del gigolò porti a casa 4.000 euro al mese, quanto un impiegato di alto livello, diciamo, quanto un dirigente. Circa, ma anche poi mesi. Però non meno, ci paghi le tasse, ecco, questa è forse la cosa. Esatto, sì. Quindi 4.000 al nero corrispondono a 8.000 pagando le tasse, quindi è uno stipendio da manager d'azienda, quindi va bene, diciamo. Diciamo non è che ti ammazzi di fatica alla fine, se poi andiamo a vedere, non è il sudore della fronte che rimpiange, anzi alla fine. A me piace, perché poi tra l'altro mi dà una scarica di emozione, di adrenalina, che per me, cioè io quando lo faccio io sono felice. No, ma me lo immagino. Mi piace di farlo, quindi proprio mi piace anche prepararmi così. Cioè, non avrei accettato, tu mi facevi il piagnisteo, non ti puoi immaginare quanto è faticoso. No, anche perché tu puoi declinare l'offerta, cioè se non ti piace la cliente, puoi dire no, guarda, signora, mi fai proprio schifo, con te no, non puoi dirlo. No, io non lo so, perché loro chiamano e noi fissiamo questo appuntamento, non so, a Milano piuttosto che a Brescia. Quindi al buio? Al buio in assoluto, sì. Ma se trovi un ottantenne infradicita, che fai? Dopo dipende, se devo portarla solo per una cena va bene, se dopo chiede anche oltre io gli dico di no. Ah, può dirgli di no? Sì, assolutamente, beh certo, insomma c'è un limite anche, vuol dire, dato da il buon senso. Ecco, questo è un momento delicato, ma come fai a dirgli, mi fai schifo, non ti ci porto di là, come fai a dirlo? Perché è un momento brutto, per me, a me spaventerebbe questo momento, non altri momenti. Ma guarda, io a parte che anche una cena con la dentiera che ti straballa davanti non è proprio il massimo. Non è il massimo, infatti a me spesso capita quando accompagno signore che insomma non sono proprio così bellissime e che vengo proprio guardato e secondo me qualcuno capisce. E si capisce che fai la troia in quel momento, si capisce. Sì. E allora niente, in questi momenti io di solito invento qualche scusa, ma comunque io sono chiaro già da subito, io sono chiaro quando chiamano e dico io prima ti vedo, insomma ci conosciamo un attimo, poi facciamo la nostra cena, se ci conosciamo con un aperitivo, poi andiamo a cena, poi vediamo. Il tarallo solo se decido io, ecco, questa è la sintesi. Sì, no, io certo. delle cose sforzate io assolutamente. Sentiamo Susanna. Mi chiamo Susanna e volevo dirti questo. Qui, cioè, io ho 45 anni, no? Frequento senza marito i bar, qualche bar, no? E mi ritrovo sempre sola e quindi dentro di me mi sento, dico, ma guarda un po', dico, se qualcuno mi pagasse il caffè oggi, dico, sarei contenta, vorrei essere corteggiata, vorrei essere ammirata, forse vado un po' fuori il binario di ma tu oggi, ai bar vai perché speri di essere vai per essere abbordata? No, ci vado perché mio marito non ama andarci, cioè mi ci lascia da sola. Allora ieri cosa mi è capitato? Mi è capitato che un gay di Roma, ma un bel uomo, mi ha offerto una tisana, dice, Susanna, ti posso offrire una tisana? So. Così? Però io non è che lo faccio a pagamento. Ma intanto guarda, tu comincia, guarda, faccio a pagamento. Se lo scopo è ottenere l'intima d'azione da parte di un uomo, ci si arriva progressivamente. Tu cominci con un simpatico signore gay che ti offre la tisana, arriverai a uno stallone nordafricano che ti darà una notte d'amore. Lo sai, no, guarda, non lo so, non sono ipocrita, dico solo che il gigolò non mi piace proprio a pagamento, capisci? Cioè tu lo vorresti gratis? Gratis, certo. Io ho avuto tante volte. Questa è una furbata, scusami. Io frequento dei bar, insomma. È come quei poveracci morti di fame. Scusami. È come quei morti di fame che si procurano l'appuntamento con la escort, fanno i grandi, poi alla fine smettono a piangere che non hanno i soldi per la marchetta. Allora stai a casa. 800 24 0024. Ci sentiamo tra un istante dopo le informazioni del traffico. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt. Mi diverte molto che vedo che su Facebook si stanno sbloccando le signore, tutte raccontano che almeno una volta nella vita ci hanno provato, hanno tentato, ci hanno pensato o l'hanno fatto attraverso questa forma in diretta, con soprattutto in viaggi in paesi, in situazioni in cui si suppone che quell'accompagnatore così gentile, così carino abbia una vita disagiata, con piacevolezza e con leggerezza si fa un regalino che sostituisce in realtà quello che molto più banalmente, crudamente, andrebbe chiamato marchetta. Gianluca De Mar, ci eravamo interrotti in prima parte, molte domande naturalmente da parte del pubblico maschile, molte donne ancora tengono questa posizione che alcuni momenti particolari sia impossibile comprarli. Io non sono molto d'accordo, perché alcuni momenti particolari in realtà si basano molte volte sull'infame compromesso della finzione. Perlomeno con voi non serve fingere, si sa che non è una finzione. Esatto, cioè, io ho proprio visto che con me sono tutte molto naturali, subito vabbè sono un po' intimidite, hanno un po' paura, sono un po' imbarazzate, anche non tutte ma gran parte. Dopo parlando, insomma vedo che si lasciano andare, vedo anche che per cena mi iniziano a spiegare, poi raccontare del marito, dell'ex marito, quindi cioè, si confidano anche molto, perché ho visto che più che altro tante donne hanno bisogno di parlare e di essere ascoltate. Scusami Gianluca, ma alla fine qual è la differenza? Una volta stabilito, e togliamo questo momento dalla lucida memoria, una volta stabilito che il contatto che si è avuto con te è un contatto con un professionista, cosa cambia da un'uscita con un uomo che si è conosciuto, un ex collega, un collega, una persona conosciuta in qualsiasi posto, con cui si esce con l'idea che forse a quest'uomo alla fine, se ci piacerà, la daremo? Esatto, esatto. Cioè, secondo me alla fine non cambia niente. Cioè, sono proprio delle inibizioni che tante donne hanno. Però infatti io conosco anche tante che vorrebbero ma non si attentano, che chiamano e mi chiamano varie volte, ma io vorrei ma non so, ma come facciamo? E secondo me questo è la libertà che la donna negli anni si è anche guadagnata, e quindi io sono contro quello che diceva quell'ascoltatore di prima, che questo è sinonimo di decadimento. No, anzi, questo è tutt'altro per me. C'è sempre questa sicurezza degli uomini, queste cose che vorrebbero le donne belle inchiavardate dentro casa a testa bassa a fare figli, questa esatto, è la sintesi. Mamma mia. Ma sono i peggiori portatori di impalcature frontali queste persone qua, è chiaro, gli sta bene, se lo meritano, è anche giusto che accadano queste cose. No, esatto, tra l'altro loro sono proprio i primi che poi si predica bene ma dopo si fa altro, loro sono i primi che dopo semmai chiamano le varie escort. E poi tra l'altro voglio dire, se la donna è una donna libera, sarà libera anche di chiamarmi per stabilire per una serata o per un servizio. Non penso ci sia niente di male dare questo, chiamiamolo servizio, perché alla fine poi il servizio è. E quindi tutti questi moralisti, ma secondo me sbagliano. Io dico una cosa, e lo dico prendendone tutta la responsabilità. Ammesso e non concesso, non fa parte dei miei schemi, che esista un metro di giudizio morale e etico su una donna che si conceda a un uomo senza avere la pregiudiziale giustificazione dell'amore. Non c'è differenza se lo faccia con un uomo che gli ha manifestato chiaramente le intenzioni di portarla a letto e quindi ci esce per quello, lo faccia con un uomo che questo lo fa per professione. È la stessa cosa, c'è lo stesso tipo di trasporto, c'è la stessa qualità e intensità di rapporto, secondo me. Potrei anche sbagliarmi. Sentiamo Alberto. Alberto, buongiorno. Cosa Io volevi sapere? Ho 42 anni e ho avuto parecchie relazioni, due matrimoni, 4-5 convivenze, e mi sono accorto a 42 anni che praticamente forse era la vita che dovevo fare, e ci sto anche pensando che forse potrei anche farla, la vita del gigolò, perché alla fine a livello di affetto, a livello d'amore, a livello di coccola, a livello di ascolto verso le donne, vedo che sono molto portato. Per cui volevo chiedere come si può iniziare e se forse è anche già troppo tardi. Gianluca, brevemente. Sì, no, allora io ho iniziato un po' per caso, perché appunto frequentavo una donna di 50 anni e questa mi faceva i vari regali così. Dopo io per iniziare sono iniziato ad andare a delle terme, quindi in vari stabilimenti termali, mi sono messo d'accordo con qualche funzionario e, in cambio di qualche paghetta, e niente, e questi mi iniziavano a chiamare fornendo di numeri e di nomi di donne abbastanza attempate che avevano voglia di passare. Quindi tu cominci, diciamo, a farti le ossa con le persone un po' più attempate, alzando sempre il livello della qualità femminile. Esatto. Che poi... Senti una cosa, Gianluca, questa è la domanda mia, ma io non ho visto le tue foto, che non ho fatto in tempo a guardarle, ma occorre una particolare dotazione fisica, prestanza fisica, o sì, anche un uomo qualsiasi può farlo? Beh, l'unica cosa che mi chiedono sempre, cioè veramente una chiamata su due, la prima cosa che mi chiedono, non so perché, se sono alto. Non devi essere tappo, è questo? Sì. No, deve essere almeno 1,85 m. E 85? Sì. E niente, allora io sarei tagliato fuori, pazienza. Bisogna essere molto alti, quindi sotto il 1,85 m, anche perché esiste un criterio di proporzioni fisiche che tenderebbe a smentire che l'uomo alto è quello che poi dà maggiore soddisfazione, però evidentemente è così. Simona, sentiamo Simona. Simona, cosa devi domandare? Sì, ciao, buongiorno. Niente, sono un po' incuriosita, diciamo, da questi facili guadagni che mi hanno fatto un po' drizzare le orecchie. Ma tu sei una donna, te è un altro lo settore. So, però c'è anche al femminile, no? Sì, vabbè, ma adesso che c'entra? Femminile è scontato. Se vuoi fare marchette è la cosa più semplice del mondo, ma qua stai parlando di donne che pagano uomini. Sì, lo so. Vorrei sapere come è iniziato, nel senso... Te l'ha detto adesso come inizia? Adesso. Ha cominciato andando alle terme. Visto una volta c'era un'amica di 50 anni che gli dava un po' di soldi, ha detto se va bene con questa può andare. È andato alle terme, facendo il ragazzo di bottega alle terme, si prendeva tutte le babbione che stavano lì alla cerca di ragazzi, certo. Poi via via si è specializzato, oggi va anche con donne che potrebbero comunque avere un mercato reale e concreto, ma scelgo di andare con lui. Non solo signore anziane o verso il femminile, uomini un po' anziani, un po' sfigatelli o così. Ah, quindi vuoi sapere anche... Gianluca, chiede questa ascoltatrice Simona se ci fosse spazio anche per donne come lei, quindi con prestanza fisica, capace di sedurre comunque, ma va col gigolò per una scelta di qualità ben precisa. Ma ci sono certe, sì. Devo dire che sì, sono certe che potrebbero avere veramente tutti gli uomini del mondo, ma perché sono belle signore, proprio tenute bene, fresche anche. Però gli piace anche un po' questa emozione... dell'incontro clandestino, e gli piace proprio il fatto di pagare. Io ho un'amica manager che lo fa normalmente, perché dice io devo ottimizzare i miei tempi quando sono in trasferta, quindi pago uomini. Ultima cosa, molte chiedono se tu sei sposato, fidanzato, accoppiato. Io sì, ho una compagna da 5 mesi circa. Che lei sa che fai questo mestiere? Assolutamente no. Non lo sa. E adesso no. Che ti ha sentito alla radio, come risolvi la tua crisi? Non penso che lei sia, ma almeno credo. Guarda, io non ci metterei la mano sul fuoco. Grazie Gianluca De Mar, grazie. Prego. A tutte le signore che hanno avuto il coraggio di chiamare, di porci domande su questo tema sotterraneo, ma vedete emergerà sempre di più. Grazie Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti, che stanno facendosi due conti e hanno visto che forse anche loro potrebbe servire di cambiare mestiere, ma sono tutti sotto il 1,85 m. Alors tous deux on est partis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.